Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Rituali informazioni di servizio. Partiamo con la prima. Il nostro sito radio24.it. Potrete dialogare anche con i blog dei giornalisti. Il mio lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri. Lo trovate attraverso qualunque motore di ricerca. La seconda informazione di servizio è quella che riguarda la nostra mail. unabusoalgiorno@radio24.it. Sotto i mondiali di calcio moltissime catene distributive hanno proposto fior di offerte per invogliare le persone ad acquistare televisori, comunque prodotti elettrodomestici che consentissero di seguire meglio i mondiali di calcio. È una cosa molto molto rituale, accade ogni due anni tra europei mondiali o con le olimpiadi e via dicendo. Di una di queste offerte o supposte tali ha voluto usufruire un nostro collega giornalista, il collega Lionello Mancini del Sole 24 Ore, come me, appunto, inviato di questo quotidiano, che si è recato alcuni giorni fa a Milano in una catena Euronics. E cosa voleva fare? Voleva acquistare due televisori. Ha detto: posso averlo con lo sconto? Questo è il prezzo che noi pattuiamo. Benissimo, me lo portate a casa? Ma certo, signor Mancini, ma vuole che non glielo portiamo a casa? Quanto mi costa X? Bene, questo era come sarebbe dovuto andare in un rapporto fiduciario tra cliente e venditore e commerciante e catena distributiva. E invece c'è stata più di una sorpresa. Buongiorno Mancini. Buongiorno. Allora, può raccontarci com'è andata? Ci diamo del lei, voi sentirete questo lei, ma è, come dire, deontologia professionale, anzi, anche se ci conosciamo da una vita. Ecco, può raccontarci com'è andata il suo incontro, scontro con Euronics? Sì, è una storia credo abbastanza comune e si tratta di questo. Allora, è vero che ci sono tutte queste offerte perché la gente è invogliata anche per il cambio al digitale terrestre, a cambiare televisore. Allora io, contando sul fatto che anziché uno ne acquistavo due, ho chiesto se avevano delle offerte, e mi hanno proposto questo sconto, diciamo intorno al 10%, per essere chiari, di due televisori uguali. Ho concordato, ero insieme a mia figlia, ho concordato con loro anche il prezzo del consegna installazione, diciamo per fare cifre tonde 15 euro, e anche il ritiro di un televisore vecchio usato, diciamo altri 10 euro. Sono cifre più o meno inventate, ma è per dare un ordine di grandezza. Passano 5 o 6 giorni, quindi mi segno il modello, la cifra e tutto, torno lì per fare, concludere l'acquisto insieme anche a mia moglie, che non aveva neanche ancora visto i televisori. Andiamo lì ed era tutto cambiato. Era tutto cambiato perché questo sconto concordato, che peraltro aveva restituito un computer come risposta a un'interrogazione che il commesso ha fatto, beh, insomma, quello sconto non era più del 10%, ma del 3 qualcosa per cento. Io ho detto, ballavano 20 euro, d'accordo. La sorpresa vera, la cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare, è stata invece che nel frattempo era entrata in vigore la legge che imponeva ai venditori di ritirare l'usato. E quando il commesso me l'ha detto, io sono stato, come dire, contento, perché avevo pensato di risparmiare il costo, certo, del ritiro. Invece, magicamente, il costo del ritiro, che era stato cancellato, era finito, sommato al costo della consegna installazione. Quindi il costo, diciamo così, per, in questo caso, l'esercizio commerciale, veniva scaricato in un modo o nell'altro sull'acquirente, quindi a pagare era l'acquirente. Io ne ho discusso brevemente con il commesso, che era piuttosto imbarazzato e quindi si è, diciamo, arreso quasi subito, ma non poteva arrendersi e anche favorirmi, perciò ho chiesto di essere favorito dal direttore del punto vendita. Stiamo parlando di un Euronics preciso, non so se è il caso. Sì, ma possiamo anche dirlo, un negozio Galimberti in via Solari a Milano. Esatto. È venuto il vice direttore, che deve aver fatto un master in scortesia, perché si è addirittura, come dire, inalberato sul fatto che io facessi tante osservazioni, li facessi rimarcare come se una legge imponeva a loro di rendere un servizio, non vedo perché dovevo, certo, pagarlo io. Insomma, si alberava per il fatto che lei faceva valere, sì, i propri diritti. Sì. Insomma, questo è meraviglioso. Comunque, cercavo di spiegare il mio disappunto. Certo. Allora, noi abbiamo contattato, così come ha fatto Lionello Mancini, Euronics, però prima, esatto, prego. E allora niente, io a quel punto ho concluso l'antipatico incontro dicendo vabbè, io non compro niente, e lui ha detto perché guardi, nessuna legge ci impone di tagliare i costi dei servizi, se non le sta bene vado da un'altra parte. Vado, sono andato, ma la mattina dopo di buon'ora ho scritto a Euronics, a servizio clienti, segnalandogli l'accaduto, e devo dire che pochissimi giorni dopo, questo accadeva un venerdì mattina, il martedì successivo sono stato contattato appunto dal direttore marketing in persona, che si è scusato, io avevo chiesto delle scuse all'azienda, certo, si è scusato e mi ha fatto delle controproposte, diciamo, di risarcitorie, chiamiamole certo, così. Certo, allora anche noi abbiamo ovviamente chiamato Euronics e questa è la risposta dell'azienda. Abbiamo provveduto a distanza di pochi giorni a contattare direttamente il signor Mancini, con il quale ci siamo scusati per l'accaduto e al quale abbiamo confermato la prima quotazione per l'acquisto dei due televisori 26 pollici, 341 euro. Per scusarci ulteriormente abbiamo regalato al cliente la consegna e installazione dei prodotti, oltre al ritiro a domicilio dell'usato. Anche se piuttosto rari, purtroppo questi sono episodi che possono capitare all'interno di una realtà grande come la nostra. Dottor Paolo Berra, direttore marketing Galimberti S.p.A. Allora abbiamo ascoltato la risposta dell'azienda che chiaramente contatta il nostro cliente, ma lo contatta a volte a pensar male, si fa peccato ma ci si azzecca, dopo che comunque Euronics, questo negozio, è stato contattato anche da Radio 24 dicendo in totale trasparenza, come stiamo facendo con voi, che era un caso lamentato da un collega giornalista, ma avendo stessi diritti e doveri di qualunque altro cittadino italiano, li ha fatti valere al momento. Sì. Allora noi abbiamo il piacere di avere Domenico Murrone, che è il direttore editoriale di ADUC, una delle associazioni che noi facciamo ruotare nei nostri interventi a difesa dei consumatori. Murrone, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io direi un commento a questa storia. Che cosa c'è che va e cosa c'è che non va? Soprattutto a me è colpito proprio che cosa? Questo voler far pagare al cliente, per uno che si lamenta come un giornalista che ha la fortuna di poterlo fare, chissà quanti altri invece non lo hanno potuto fare, appunto, dicevo, mi ha colpito questo costo che viene attribuito al cliente. A me pare una cosa un po' scorretta, diciamo. Tutto una precisazione, perché praticamente noi il ritiro, lo smaltimento e il ritiro degli elettrodomestici usati già li paghiamo, sono delle tasse che gravano sul circuito, sul ciclo produttivo, insomma. Giusto. Direttamente, quindi noi adesso non ci viene addebitato un costo diretto, ma è da anni che comunque una legge ci impone un balzello. Certo. Quindi lo paghiamo, adesso non paghiamo due volte. E questa è la novità che è partita dal 18 agosto, dove praticamente si dice che il commerciante che vende un elettrodomestico ad un consumatore è obbligato al ritiro nello stesso luogo in cui consegna la merce. Ecco, ma senza farlo pagare al consumatore. Ovviamente però. No, perché questa è la novità che è ripresa dopo un po' di anni di stand-by, insomma, ha avuto una legge, un iter molto complesso questa norma. Adesso siamo ritornati al fatto che con questo sistema si suppone che praticamente saranno meno i rifiuti elettronici abbandonati. Ma come può un cliente consumatore rendersi conto di questo? Cioè, noi abbiamo un caso in cui il nostro collega se n'è accorto perché prima gli avevano fatto un prezzo e poi un altro, ma noi da domani, da oggi, da dopodomani, come facciamo a sapere se ci maggiorano il prezzo dell'installazione, della consegna, e quindi automaticamente fessi, gabbati e anche cornuti? Questa è operazione difficile, perché purtroppo le catene commerciali elettroniche non sono nuove a dei comportamenti che potremmo definire scorretti, tant'è che in un aspetto collaterale alla vendita degli elettrodomestici sono sotto indagine da parte dell'antitrust in fatto di garanzia, di non riconoscimento della garanzia ai consumatori. Esatto. Allora Murrone, io vorrei farle anche un'altra domanda con una risposta rapida, dicendo ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, chiedete chiarezza sul ritiro dell'usato, non dobbiamo pagarlo noi, non dovete pagarlo voi. Caro Murrone, ma cosa vale la risposta del cliente quando di fronte ci si trova ad una persona che dice no, ma guarda che il prezzo non era 100, era 150, e il cliente, nel nostro caso il collega Mancini, dice ma come, mi avete detto 100, adesso mi dite 150? Cosa vale la parola contro la parola? Come ci si può difendere in questi casi? Ah. In questi casi, quando si ha una sorta di preventivo, come è accaduto a Mancini, sarebbe meglio sempre farsi lasciare una sorta un pezzo di carta, dove certo. Comunque c'è la sottoscrizione sostanzialmente di un impegno a vendere quel prodotto entro un certo periodo ad un certo prezzo. Quindi la prima cosa è questa. E poi, nel caso in cui non ci fosse il rispetto degli impegni, evidentemente spendere il nome Sole 24 Ore è un incentivo per ottenere una risposta immediata. Il cittadino, che ovviamente è comune, in caso di il non rispetto delle condizioni pattuite, può comunque procedere con raccomandata di messa in mora per intimare: ci guarda, è successo questo e questo, certo. Se non fai questa cosa ti rolevi legale. È ovvio che poi si ha a che fare con la giustizia italiana, che ha tante problemi. Certo. E magari anche ricorre ad un'associazione dei consumatori. Noi ne facciamo ruotare sempre, ed è per questo che oggi io ringrazio Murrone dell'ADUC, così come ringrazio il collega Mancini, in regia Carmelo Lauricella, in studio Valeria Coffaro, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.